sangue quanto sia. Tieni con l'aria, scusami. Sei l'agio, non lo so. Ritornate invece, ancora non è arrivato niente, me l'hanno detto oggi. Non è arrivato ancora in carto il bando. Vai a zappare, cos'è in carto? Dove è stato distrutto? Mi fidate l'altro io. Ciao a tutti, Marco. Ben sentito Marcolino. Poi se prendete la Marcolino. Non ti sei rivelato. Ma stai scherzando? Sembravano anche abbastanza matti, ma un'impressione mia. Ma che cosa? Guarda, non sto capendo cosa stai dicendo. Eccole. Che fa successo? Perché non ti sto capendo. Spiegami, magari tu capisco. Deia, asso. Ho tutto sparato con la modulazione a manetta. Ma ti capisco io, tu. Sparato, non ho capito. E poi chi è che se l'è presa? No, nessuno se l'è presa. Ma non sto capendo niente, no. Niente. Antonè? Io sono trovato già dal letto, poi ho abbigliato la pagliata per la febbre. La fisquina. Non mi c'è respirare. Però non cambia, perché mi ha chiamato io al telefono. Fai da bravo, come si può dire, argomento la cosa, vai. Dopo che è acceso, lo giri, ma io si spegne il tonno, gli fa il nuovo cazzo, figurati, ti fa bene convulsioni. La tubercolosi è entrata. Tubercolosi è quello che fa. Esulare pure. Ah, va bene. Alessio. Marco. Ciao. Alessio. C'è nessuno. Vabbè dai, non la cena. Ah, va bene. Io già ci sono di te. Sono. Hai mangiato tu? Io sì. No, mi sono fatto una bella di asparagi, cipolle, un po' di formaggio di quello filante, mezzo, e uova. E ho fatto una bella frittatina. Io sono andato al centro appena, ma stavano chiudendo già i negozi. Ma il telefono adesso ce l'hai carico? Beh, più o meno, sì, adesso è carico. Io l'ho carico da spento per far prima già. Capito, anche io faccio così, lo spengo. Ma eri in macchina, eri da usciare, mi hai detto. Ma eri, stavi andando in macchina oppure eri già dentro? No, già dentro da un po', a voglia, abbiamo mangiato anche lì. Senti un po' di casino, di voci, di cose, sembra una discoteca, Osciano è un abolotto. Sento che... Ma senti questa. Non è la batteria, credo sia la capsula che balla. Ma dove lo sta facendo il microfono? No? Conferma, è la batteria che balla. No, è un mic Lalan F10. Ma cosa ti stavo dicendo? Come si chiama? Olio Piuma, dove l'ha messa l'interno più 3? Io ho capito 140. Era sul 5, vediamo se c'è. Attenzione Elio. Adesso? No, prima. Quanto è? 20 minuti fa, sul 5, aspetta. No, vabbè, se stava andando bene, è meglio così, perché questo qui non lo voglio più vedere, c'è qualche altra idea, perché mi hanno detto che adesso esce bene. Ok, aspetta. Vabbè, Marco. Parla. Sì, parla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meglio, caspita, premio comunque Remex o questa Intec. E poi ho rispolverato la bellezza di avere Splatter con questo apparato, cosa che con i Superstar non esiste. C'è una bellezza, sì. Come già? Ho detto c'è una bellezza, io non avevo fatto bellezza per prendere Splatter. Ma io mi ricordo che così li prendevo negli anni 80-90. Invece con i Superstar non ne prendi di Splatter. Cioè si abbassa appena la ricezione, ma qua si abbatte proprio la ricezione. Battimento fa, non proprio Splatter, battimento. Battimento da chi? Per esempio sul 5 in ascolto, è entrata la gente sul 10 e avevo battimento. Da per esempio da Gian Maria che arriva oltre 9.20, 9.25, capito? Io quanto fa vivo di segnale? Io sono con 4 watt, già. Allora, vuoi sapere il tuo segnale su questo apparato? Aspetta, Ateno. Vai. Vai a vedere, 1, 2, 3. Tu sei 7.5. Tra 7 e l'8, 7 e mezza, quindi fai che sia 8, 8, 9, 5, 10, 15, 20, 25, dai, tipo 9, 25, dai, quasi. Non può guardare niente, sapere. Ma Marco, poi ecco. Aspetta, già, un attimino questo. Ho notato una cosa con questo mic. Deve avere una massa insufficiente, perché in ricezione sento una leggera alternata che sparisce toccando il bocchettone del PL. Bravo ragazzi, oggi mi sono tutto lavato la moto, ho tirato l'assicurazione, mi sono fatto un giro a Placcarano, ho detto vabbè, trovo a Marco, invece ce l'ho più visto, pensavo che fossi lì e così l'ho fatto caricare la mattina perché non voleva più mettere in moto, l'ho messo in moto, ho messo il carretti della macchina e l'ho messo in moto così. E poi sono andato a fare un giro, poi sono andato a mettere la roba di dietro, però non c'era, arrivano venerdì, la metto venerdì, e sono tante ore lì, qui ci vogliono altri 200 euro per fare il tagliato. Soldi, soldi, soldi, soldi per tutto, fra un po' anche per respirare, cappa. Che orrendi questi baracchini, eppure hanno un certo fascino, questi di 30 anni fa. Che cos'è? Un Intec? Allora, Intec 500 FM 548 SX, fratello maggiore del 500S. Sì, ho capito, io ho avuto 500, però non l'ho staccato. Ehi, mi pare che Gabino abbia questo apparato, il 548 SX, esce anche forte. Caspita, con quel preamplificato va forte, mi pare sia l'M300 forse. E ma quello di Gabino è modificato. Modificato, ma la modulazione è aperta. Ma non so, vuole modificare che c'ha, però vuole modificare. Capito. Meglio. Sì, 4 watt sono. Che caldo. Con te ce l'hanno. Scusami che tutta mia moglie sta parlando. A Milese, con un Milese. Ehi, ce l'aveva con te, sì. Cosa? Ehi, stavi parlando in verticale, ho detto. Era tutta perché mi ha telefonato e non gli ho risposto. Il telefono potevo sentire se eri morto. Uia. Allucinante, c'ho caldo in testa e freddo alla mano. Un giorno prima di morire viene la roba. Prima di morire viene. Tocchiamo ferro, tocchiamo lo chassis dell'apparato. Cosa, Marco? Ho detto tocchiamo ferro. No, per carità, sto scherzando. Oppure è meglio così, una liberazione, dai. Io, Marco, quando tocchiamo te lo facciamo tutto qua, tu tagliamo e tu te ne va a farci un giretto. Con la moto tua, oh, così vai a 160. No, vado piano. No, no, no, non mi siedo con te, no. A Leoncino mi hai fatto volare i capelli. No, c'è questa griglia solo. No, no. Ma non sai cos'è? Che magari se guidi tu è un conto, se guidi un altro mi cavo anch'io. Ehi, perché sai, può uscire qualsiasi cosa, un cane, un cavallo, qualsiasi persona, una persona, magari imbriaga. Di botto te la trovi davanti, in moto è un casino, in macchina ti salvi, basta baciare la testa e inchiodare, come va va. E vado piano, ci facciamo una passeggiata, capito? A quest'ora, col freddo? A quest'ora, io ti sto dicendo, quando li metto, allora, che adesso non c'è da nessuno perché alla ruota lì c'è di dietro, e devo aspettare che arrivino i pneumatici della Michelin, perché metto quelli. Devo arrivare venerdì, metto quelli lì, poi faccio il tagliando e la metto a posto. E io. E molto costa il tagliando della moto? Questo qua sono 200 euro. Però questo qui prende il cambio liquido del radiatore, cambio candele, cambio filtro aria, filtro olio e cambio dell'olio. In più un massaggio di tutte le parti, ingrassaggio, controllo dei freni, eccetera, eccetera. È quello più importante, tranne quello che ho fatto due volte prima, che avevo cambiato la cinghia, e lì sulla cinghia costa di soldi. Sarebbe da fare anche sulla macchina. Però, mamma mia, stare fermi senza macchina ci troviamo ben male. Io l'ho fatta da poco nella macchina, l'ho fatta già tre volte nella macchina lì. Eia, di solito la fa in giornata, gli devo lasciare alle 8:30, capace che mattinata sia fatta, però dipende cosa devo fare. Se è un cambio d'olio sì, se bisogna cambiare la cinghia me la tengo per la giornata, forse anche di più. No, io l'ho portata a letto una volta una. E me l'ha cambiata già, mi ha fatto il tagliando e il cambio della cinghia. E dipende, là. Dipende se c'hanno i pezzi a portata di mano, se devo andare a prenderli. Io l'ho portata là e per... loro c'hanno tutti i pezzi. E mi ha cambiato cinghia, quindi cinghia, cuscinetto, tutta la serie. Perché non sai molti cosa fanno. Ti cambiano solo la cinghia e il cuscinetto, la gomma se la prendono loro. Ehi. Poi dopo un po' di tempo ti c'è proprio il cuscinetto e il grippi lo stesso. Rispondi. Ah, aspetta che vado. E beh, farà due.